sulla terra con un giro strano, tra facce uscite da un incubo kafkiano. Sì, mi piace immaginarti così, discendente da un altro pianeta, dove si vive tutta un'altra vita. Altrimenti non saprei spiegare la tua fatica nel doverti adattare in questa savana di città, che lascia un po' di sé nei tuoi polmoni. Senza gambe da gazzella, né un coraggio da leone, come farai, povero amore mio? Sarà per questo che spesso guardi in alto quando ti parlo e chiedo un po' di ascolto. Sì, può sembrarmi strano, ma è così, con la testa in un altro pianeta, dove si vive tutta un'altra vita. Dico egoismo, sai cosa vuol dire? Possibile che lassù nessuno te l'ha saputo spiegare, ma in questa fantastica città vedrai, vedrai quante parole nuove. Odio, rancore e frustrazione, poi abbiamo la televisione. Dimmi che non parti, dimmelo amore mio. A dare un buon motivo per restare, fallo per chi qua ci è caduto, un po' come è successo a te. Dimmi che non parti, dimmi l'amore mio.